Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, di nuovo con voi Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria, per quello che riguarda le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ve le hanno ricordate i nostri GR, comunque ne parleremo. Ancora nulla di fatto sul governatore della Banca d'Italia, oltre a Grilli e a Saccomanni c'è anche Bini Smaghi, e poi il tentativo di fare un disegno di legge sullo sviluppo a costo zero. Berlusconi è stato molto chiaro su questo: non ci sono soldi, ci inventeremo qualcosa. E poi ha aggiunto: non ci deve essere fretta, deve essere convincente il disegno di legge sullo sviluppo. Ecco il perché della riunione oggi alle 19 per quello che riguarda Forza Italia. Ne parliamo nel corso del programma. L'altra notizia di oggi riguarda invece la Francia. Perché dopo che le parole di Angela Merkel ieri avevano depresso i mercati, oggi in realtà è una delle agenzie di rating a mettere in difficoltà la Francia. Che cosa ha detto nel caso specifico sul debito francese Moody's? Beh, ha detto che ha messo sotto osservazione il debito francese e potrebbe essere declassato. Ora la Francia ha una tripla A, per cui viaggia benissimo, però l'effetto si vede soprattutto in borsa, dove se Francoforte è positiva di mezzo punto percentuale, Londra leggermente negativa di meno 0,3, Milano positiva di uno 0,4%, Parigi la peggiore, perde lo 0,70%, tant'è che il presidente francese Nicolas Sarkozy ha detto: il nostro destino si gioca nei prossimi 10 giorni. Un po' tranchant per essere in tema Sarkozy, ma tant'è. Per quello che riguarda invece il termometro sul nostro debito, purtroppo va segnalato che di nuovo lo spread, ossia la differenza tra quanto costa noi trovare finanziatori per il debito e quanto costa la Germania, il paese considerato più affidabile, ebbene è arrivato a 380 punti. Siamo tornati ai livelli pre-finanziaria, purtroppo, cioè il livello di febbre sul debito che c'era prima della manovra di agosto, 380 punti. Anche la Francia ha toccato un nuovo record come spread, molto molto meno di noi, nei confronti della Germania, a 100 punti. È però per la Francia il massimo da 12 anni a questa parte, cioè da quando esiste l'euro. Per quello che riguarda l'andamento di borsa, segnalo che Pirelli va molto bene oggi, più 4,1, Autogrill più 3,6, Unicredit più 3%, Diasorin più 2,30 come Fiat Industrial e anche Fiat Auto più 2,30, nonostante i dati auto obiettivamente brutti a livello europeo per il gruppo del Lingotto. Ancora Prismian più 2,1, Popolare Emilia Romagna più 1,80, Intesa San Paolo più 1,70, Ubibanca più 1,30 come il Banco Popolare. Chi perde invece? Terna meno 2% come Telecom e Tods, Enel meno 1,70, Parmalat meno 1,5, Monte dei Paschi meno 1,40%. 349-238-6666 per i vostri SMS. Grazie per il bentornato di alcuni di voi. Ogni tanto abbiamo anche impegni esterni. Andiamo subito con le notizie in breve. Vi anticipo però che tra i temi, oltre al caso francese e alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ci sarà anche il fisco, perché oggi è la giornata del Sole 24 Ore dedicata alle domande sul fisco, telefisco, che è in una formula un po' diversa oggi, nel senso che con l'ausilio della rete, di internet, non durerà un giorno solo, mettiamola così, ne parliamo fra poco. Gli altri mercati intanto segnalano sul petrolio un leggerissimo calo, $86,3 al barile, stabile petrolio, così come è stabile anche l'oro a $1,676 l'once. Il mercato europeo dell'auto, già lo anticipavamo, più 1,1% a settembre le immatricolazioni complessivamente in Europa, il che è la media tra il meno 5,5% dell'Italia, il più 8% della Germania, il meno 1,5% della Francia e il meno 1% sia della Spagna che della Gran Bretagna. È bruttino il dato sulla Fiat, meno 8% quasi le immatricolazioni del gruppo a settembre, soprattutto il marchio Fiat perde, meno 13% quasi, Alfa Romeo meno 2,6%, Lancia più 17%. Gli altri invece vanno bene, comunque va segnalato il dato di Lancia più 17%, il problema da quello che si capisce è proprio sui prodotti, sul marchio Fiat. Volkswagen più 12%, Renault più 1,5%, Peugeot Citroën male invece meno 13%, Opel meno 6%, BMW più 7%, Daimler meno 7,4%. E cala più del decisamente anche più di Fiat e Toyota, meno 9%. Scende così la quota del marchio del gruppo Fiat a livello europeo, scende al 6,5% contro il 7,1% di un anno fa. Quanto a economia, non in questo caso europea ma internazionale, segnaliamo che oggi dalla Cina è arrivato un rallentamento della crescita economica, ma attenzione, è un rallentamento alla cinese. Invece che fare il 9,7% di crescita del PIL come nei primi tre mesi o il 9,5% come nei secondi tre mesi, il terzo trimestre purtroppo per i cinesi segna un calo al 9,1%, cioè 9,1% è praticamente un tasso di crescita che noi con questi dati vediamo in 8 anni circa. La produzione industriale in Cina ha fatto più 14%, investimenti a capitale fisso, pensate, più 25%. E adesso qualche trimestrale delle banche d'affari americane, poi passiamo al primo tema. Bank of America chiude il trimestre con 6 miliardi e 200 30 miliardi di dollari di utile netto contro 7 miliardi di perdita l'anno scorso. E l'utile pari a 56 centesimi per azione, è quasi 3 volte le attese degli analisti, segno che le banche d'affari hanno ripreso a guadagnare e hanno ripreso a guadagnare con i soliti metodi. Volete sapere dello spread? Lo spread è a 380, cioè a livello pre-manovra finanziaria d'agosto. Lo so, alcuni scrivono al 349-238-6666 ma praticamente non è servito a nulla la finanziaria. No, non è questo, non potremo sapere dove sarebbe senza la manovra di agosto. Sicuramente l'effetto correttivo è stato annullato, nel senso che siamo tornati a un livello di rischio precedente la manovra, per cui questa non è una bella notizia, perché vuol dire che non basta quella roba lì. Goldman Sachs chiude il trimestre con un rosso di 393 milioni di dollari. E Deutsche Bank invece, e questa è una cosa bellissima, ha 5 miliardi di investimenti a rischio, ma non per aver investito su imprese così che poi si sono rivelate insolventi oppure per aver fatto operazioni finanziariamente molto articolate. No, ha 5 miliardi di investiti nei casinò di Las Vegas. E lo riporta oggi il Financial Times, e tra l'altro sono miliardi che rischia di perdere perché c'è il crollo del gioco in Nevada, meno 15% il giro d'affari, la crisi colpisce anche i giocatori, per carità. Pensate, insomma, 5 miliardi, un giorno magari faremo anche una puntata su queste banche tedesche e anche quelle francesi, che hanno dei governi che predicano molto bene, Angela Merkel soprattutto, Sarkozy un po' di meno, cioè il rigore, non bisogna aiutare la Grecia, bisogna aiutarla poco, i paesi devono fare il loro dovere, e poi però scopriamo che le banche di questi paesi in realtà razzolano molto male, e cioè sono piene di obbligazioni greche, sia le banche tedesche che le banche francesi, ne hanno 50 miliardi nel complesso, fanno investimenti spregiudicati, sono messe male sul fondo dei derivati, Dexia fallisce, Chissà se poi alla fine tutto l'accordo sulla Grecia non sia arrivato in Germania per salvare le banche tedesche? I misteri. Eh sì, insomma, no? Lezioni dai tedeschi sul fronte di come si utilizzano gli investimenti bancari? No, grazie. E allora sentiamo il commissario europeo agli affari economico monetari, Olli Rehn, parlare proprio di Grecia. Ha detto occorre rivedere il piano finanziario greco, il piano di risanamento greco, ed evitare un continuo dramma e quindi continuo stop and go, come dicono quelli che hanno studiato, cioè la battuta d'arresto e poi la ripartenza in quello che è il risanamento del debito greco. Olli Rehn. I'm just back from a G20 meeting in Paris. There is a concern about the soft patch in the global economy. Sono appena tornato dall'incontro del G20 a Parigi e c'è preoccupazione per il passo lento dell'economia globale e per il rischio di un nuovo rallentamento economico. Soprattutto c'è preoccupazione per il perdurare della crisi finanziaria. Al centro delle discussioni del G20 c'è stata l'area euro, nella quale ci sono elementi interconnessi tra loro che devono essere affrontati. Innanzitutto dobbiamo creare delle protezioni più solide per contenere il contagio. Occorre poi aumentare la capacità di prestito del Fondo Salva Stati e FSF e aumentare la sua potenza di fuoco. Su questo aspetto sono fiducioso che verrà trovato un accordo. Riguardo la Grecia, occorre una soluzione sostenibile. Dopo molto lavoro è stato trovato un accordo con la Troica e questo è un segnale positivo per l'erogazione della prossima tranche di aiuti. È anche chiaro che occorre rivedere il secondo piano Salva Grecia, in particolare per ciò che riguarda il grado di partecipazione dei privati. Occorre costruire un nuovo piano per la Grecia che sia solido per evitare il dramma continuo che stiamo vivendo. We need to build a solid second program for Greece, avoiding the continuous current drama. Beh, c'è un suggerimento di un ascoltatore che non è niente male, apprezzo l'ironia soprattutto. Dice, vabbè, per abbassare il nostro spread, cioè la nostra differenza, la differenza tra noi e la Germania quanto affidabilità, facciamo fallire la Grecia, così la Germania diventa meno affidabile, cresce il rendimento delle sue obbligazioni e per e in maniera indiretta si abbassa il nostro spread. Beh, sì, un po' contorto. Il problema non è che la Germania diventi meno affidabile, il problema è che noi dobbiamo diventare più affidabili. Non è che la Germania deve diventare più inaffidabile, ma siamo noi a dover diventare più affidabili. Che se no col 3,80% di differenza ci costa caro rifinanziare il debito. Quant'era lo spread a maggio? Era 240-260 punti. Lo dico ogni volta, ma non mi stancherò mai. Lo spread italiano cresce, così come CDS, e supera quello spagnolo. Da dopo le elezioni amministrative di giugno e il referendum di fine di inizio luglio, e dopo che si inizia a dire Tremonti non può più gestire, insomma, i conti pubblici, deve essere un atto collegiale. Allora, c'è chi scrive l'ascolto tutti i giorni, ma è troppo marcegagliano, che è un nuovo termine, immagino, che si rifà al presidente di Confindustria, e le musiche sono orrende. Vabbè, chi glielo fa fare ad ascoltare tutti i giorni? Pensa che fatica. Il fisco, telefisco, i decreti legge, e lo ricordate, dall'estate di quest'estate hanno introdotto numerose novità normative e tributarie sul fisco. Si sta concludendo l'evento di oggi, ma in realtà non si sta concludendo da un punto di vista virtuale sulla rete, e ce lo spiega Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Giovanni, buonasera. Buonasera a voi. Telefisco è il modo in cui ogni anno gli esperti del Sole 24 Ore rispondono alle domande poste da tutti. Esatto. Bisogna prenotarsi e si risponde alle domande. La novità quest'anno riguarda internet, se ho ben capito. Assolutamente sì, tutta questa edizione straordinaria di Telefisco, come straordinarie sono state le manovre di quest'estate, si svolge completamente su internet, quindi gli utenti possono accedere al sito del Sole 24 Ore. Ricordo l'indirizzo www.ilsole24ore.com/tuttomanovra. Da qui è possibile scegliere due percorsi: un percorso free, quindi non a pagamento, in cui praticamente si possono vedere le video relazioni dei nostri esperti, e un percorso invece a pagamento, che è riservato ai dottori commercialisti, che dà la possibilità di accedere ai crediti formativi, quindi insomma 6 crediti formativi pagando 12 euro. Beh, facciamo anche un po' di pubblicità al sito, ma quindi la parte, diciamo, che riguarda noi utenti del fisco, cioè noi tassati, è una parte, diciamo, non a pagamento in cui uno accede liberamente. Assolutamente sì. Ecco, le domande più frequenti che avete ricevuto in questa edizione, perché tra l'altro la manovra, ricordate tutti, sull'IVA al 21% e poi la tassazione delle rendite finanziarie al 20%, insomma, le novità per le COP. Quali le domande più frequenti? Le domande più frequenti in questo momento riguardano i piccoli artigiani, commercianti, professionisti che avranno a disposizione la possibilità di un prelievo fiscale più basso. Si chiama regime dei minimi, però la normativa cambia dal 2012. In uscita ci sono 500.000 contribuenti con un turnover, quindi sarà molto alto, e chi resta avrà una tassazione bassissima del 5%. La nuova misura però è volta ad agevolare solo le nuove iniziative produttive. Quindi c'è grande paura per chi perde questo treno del 5% e chiede come fa a restare, se può restare soprattutto. Sì, c'è poi il contributo di solidarietà, prelievo del 3% su chi ha un reddito di oltre 300.000 euro l'anno, lordi, e le riduzioni e agevolazioni fiscali per le cooperative. Tra l'altro oggi ho visto che i commercialisti, per voce e bocca del loro presidente Claudio Sicigliotti, hanno detto di non essere contrari a una eventuale patrimoniale sugli immobili, tassazioni sugli immobili o eventuale tassa patrimoniale, se davvero finalizzate a però in contemporanea con un calo dell'IRPEF, cioè la tassazione sui redditi da lavoro e da produzione, e sono a favore del redditometro, uno strumento essenziale per la lotta all'evasione. Lo dicono da meno 4 anni, è vero, Sicigliotti l'ha ripetuto molte volte anche qui, cioè sostituire in qualche modo gli studi di settore con un redditometro che andrebbe a cogliere non tanto quanto guadagni, ma quanto, diciamo, possiedi, perché il reddito è un'altra cosa rispetto al guadagno. Avete ricevuto domande anche su questo? Assolutamente sì, sono molte preoccupazioni, soprattutto per quale sarà l'indice di spesa che verrà calcolato dal fisco. Ti ricordo che comunque il nuovo redditometro, ormai pronto al debutto, la prossima settimana dovrebbe essere presentato ufficialmente all'Agenzia delle Entrate. E sul redditometro in sostanza si va a vedere quello che è il consumo di un contribuente e non quello che guadagna, anche perché sappiamo che in Italia manca il quoziente familiare, per cui tu puoi guadagnare 80.000 euro lordi e avere 3 figli, guadagnare 80.000 euro lordi e essere single, la tassazione è uguale, che è oggettivamente un'ingiustizia sul fronte della tassazione progressiva. Allo stesso modo tu puoi avere dichiarazioni, raccontavamo il caso del marito di Marcella Bella, quello che è indagato per aver aiutato ad evadere, insomma, dichiarazioni di 10-15 milioni di euro in Liechtenstein piuttosto che in Lussemburgo, dichiarazioni dei redditi, anzi, depositi di 10-15 milioni di euro in Liechtenstein e Lussemburgo, dichiarazioni dei redditi in Italia 39.000-40.000 euro. Allora, forse con il redditometro riesci a vedere se uno che dichiara 40.000 euro lordi poi ha un tenore di vita assolutamente ingiustificato. Altre domande frequenti? Altre domande frequenti riguardano una questione che sembra un po' tecnica, ma in realtà non lo è. È la possibilità di chiudere le vecchie cause con il fisco. Cioè c'è un ricorso in pendente, in primo, secondo grado, in Cassazione, c'è la possibilità adesso di chiuderle. Molti chiedono come si fa, quanto si paga e soprattutto a quali tipi di cause si applica questa possibilità. Ecco, l'altra, quindi la chiusura delle vecchie cause con il fisco, che possono essere chiuse fino a 20.000 euro, no? Pendenti fino dallo scorso maggio, circa 290.000 cause, non poca roba. Ancora, ne abbiamo parlato con una discussione anche molto accesa con il presidente Lucina, quindi costruttore di navi e yacht. È cambiato qualcosa sulla possibilità di assegnare i beni dell'impresa a familiari o soci? Sappiamo che purtroppo spesso la barca, soprattutto quando grande, è intestata all'impresa, poi però la usa il proprietario o la società, e questa è una forma di elusione fiscale quantomeno, e di non far capire, diciamo, qual è il tuo patrimonio. Che cosa avete ricevuto domande anche su questo? Perché riguarda le barche, ma anche le automobili. Assolutamente di sì. Lusso, gli immobili. La novità è che bisognerà dichiarare all'Agenzia delle Entrate quali sono questi beni della società che vengono assegnati, tecnicamente si chiama così, perché vengono concessi a familiari o soci della società. Questo è assolutamente una misura di trasparenza per poter far capire, insomma, che il bene è effettivamente devoluto a un altro soggetto, ma non è utilizzato dalla società. È per evitare intestazioni fittizie, ecco. Esattamente. E se un evasore fosse anche un avaro, chiede un ascoltatore sul redditometro, beh, insomma, fa una vita da arpagone, non da uomo, ma è difficile. Chi evade in maniera così netta, cioè che ha milioni di euro di deposito e dichiarazioni da decine di migliaia di euro lordi all'anno, è difficile che non si riesca a beccare sul fronte dei dei consumi. Esattamente, no, volevo dirti che la novità di quest'anno è che il redditometro si implementerà anche con i dati dei conti correnti, quindi i soggetti un po' più a rischio saranno segnalati anche nel redditometro. Assolutamente, grazie. Grazie quindi a Giovanni Parente del Sole 24 Ore. E adesso diamo uno stacchetto con una delle nostre musiche orrende, che però a noi piacciono tanto. La borsa, volete sapere come ha chiuso la borsa? Ve lo dico subito, più 0,33% Milano in questo momento, meno 1%, quindi quasi sui minimi Parigi, Francoforte invariata, Londra poca roba, meno 0,30, e Parigi, il problema oggi è il rating di Parigi, dell'euro non ho detto e avete ragione, anche in questo caso è 1,36,84. Allora, visto che oggi ci occuperemo finalmente anche della classifica dei marchi più conosciuti al mondo, i brand più conosciuti al mondo, l'Italia, ahimè, non svetta, anzi, ne ha solo due o tre. Comunque adesso andrò a controllare di nuovo la Ferrari, che è 99esima, e Gucci, che però è italiano solo per finta, nel senso che è francese. Numero uno è Coca-Cola, e poi invece la grande corsa di tutto il mondo legato all'information technology, Apple, ma... Non solo, direi a questo punto di dare meteo, pubblicità, poi facciamo subito la borsa, poi i marchi più conosciuti, nella seconda ora invece le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi, tensioni sullo spread italiano, ma soprattutto dubbi sul debito francese. 349-238-6666 per i vostri sms. di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora commentiamo questa giornata di borsa. Devo dire una cosa, più 0,35% va bene oggi, non tanto perché Francoforte fa più 0,31, Londra meno 0,44, ma perché Parigi è stata, ha preoccupato non pochi mercati, alla fine meno 0,80%, l'euro recupera adesso quota 1,37 del debito di Parigi, o meglio del voto del debito su Parigi, parleremo nella seconda ora del programma. Come sempre adesso invece commentiamo i titoli con Radio Cori sulle 24 ore. Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Allora, al di là di Parigi, dammi subito una spiegazione su Fiat, nel senso che oggi i dati sulle immatricolazioni europee hanno visto Fiat perdere non poco come gruppo, l'8% sopra tutto il marchio Fiat, e la quota di mercato in Europa è scesa dal 7,1% al 6,5%, però i titoli guadagnano, sì, oltretutto, più 2,3 poi... Fiat Auto e più 2,20 Fiat Industrial. Oltretutto poi c'è un'altra notizia negativa arrivata proprio in questi minuti dopo che il titolo aveva già chiuso in borsa, per cui Fitch ha tagliato il rating sul debito di Fiat a BB. In realtà oggi Fiat è andata abbastanza bene muovendosi in linea con il comparto auto e soprattutto grazie anche alle prime proiezioni, ai primi calcoli che vengono fatti sul consensus per il terzo trimestre, cioè su quello che ci si attende che Fiat farà per il terzo trimestre e che su dati che saranno diffusi il 27 ottobre. Ad esempio ce n'era uno che girava questa mattina nelle sale operative di una banca d'affari che diceva sostanzialmente che i ricavi dovrebbero essere pari a 18,6 miliardi di euro con un utile netto di 195 milioni, dati che sono superiori a quelli che erano stimati fino a pochi giorni fa, e questo insomma ha dato un po' di beneficio al titolo. Invece più comprensibile è Pirelli, quasi il 4% di rialzo, perché i dati europei dell'auto comunque segnavano un aumento delle immatricolazioni, non tantissimo, a un 1,1%, no? Sì, nonostante appunto il calo di Fiat, il meno 7,8% di Fiat, a livello generale in Europa c'è stato un incremento dell'1,1% grazie soprattutto alla Germania. Questo ha dato linfa agli acquisti su Pirelli che il prossimo 9 di novembre presenterà anche un aggiornamento del piano industriale. Il settore del lusso, insomma, i conti di Louis Vuitton Moët Hennessy non hanno certo entusiasmato. Tod's meno 2,60? Sì, conti, nonostante l'incremento delle vendite, non hanno un incremento per Louis Vuitton del 17%, non hanno particolarmente entusiasmato. Louis Vuitton debole a Parigi, Parigi d'altra parte debole in generale per le ragioni che ricordavi tu legate a Moody's, e anche Tod's ha pagato meno 2,61%, anche Luxottica meno 1,15%, insomma una giornata abbastanza incolore per il settore. Vedo messaggi al 349-238-6666 su Fiat. No, non ne voglio più parlare in questo caso, per ora ci mancherebbe. Abbiamo già detto molte volte che Sergio Marchionne, dopo essersi occupato molto e molto a lungo di modelli nelle relazioni industriali, di modelli contrattuali, dovrebbe occuparsi forse un po' di più di modelli di auto. Andiamo avanti con le notizie. Enel, sì, meno 1,80. Sì, oggi una giornata. Se metti anche Telecom mi fai felice, insomma, si fa per dire. Insomma. Sì, su Telecom nessuna notizia in particolare, mentre per quello che riguarda Enel, meno 1,79, e Terna, meno 1,95%, c'è un po' una debolezza del settore delle utilities in Europa, ma anche l'allarme lanciato dall'amministratore delegato di Terna, Flavio Cattaneo, che ha sottolineato come in questo momento non è in grado di garantire che per il 2011 ci sia una politica dei dividendi, scusate, per il 2012 una politica dei dividendi in linea con quella del 2011, insomma un po' un allarme sugli utili dovuti soprattutto all'effetto, secondo Cattaneo, che avrà la Robin Tax. Ancora sui titoli, faccio notare che le banche oggi sono abbastanza contrastate in tutta Europa, non solo in Italia. UniCredit guadagna il 2,70 91 centesimi, UbiBanca più 1,70, Popolare Emilia Romagna più 1,66 e Intesa San Paolo più 1,20, Popolare di Milano più 1%, Banco Popolare più 0,80. Mentre di negativo troviamo il Monte dei Paschi soprattutto meno 1,20%. Le banche? Sì, per quello che riguarda le banche, oggi ha pesato il monitor lanciato di Moody's sulle banche francesi, sul debito francese. Le banche francesi sono state quelle più penalizzate, ma anche nel resto d'Europa il settore non si è mosso benissimo. In Italia ci sono state alcune ricoperture, come ad esempio quella su UniCredit, che ieri aveva perso in modo deciso, ha guadagnato il 2,70. Altre si sono mosse attorno alla parità con rialzi inferiori al punto percentuale, mentre Monte dei Paschi è stata la peggiore e ha ceduto all'1,19%. Andiamo avanti con Autogrill. Oggi su Sole 24 Ore c'era l'ipotesi che stesse cercando un socio di minoranza nei duty free. Autogrill infatti fa, diciamo, gli autogrill, quelli che conosciamo noi, ma anche il 50% dei suoi ricavi li fa in dollari perché gestisce moltissimi autogrill negli aeroporti americani. Prego. Sì, ci sono chiamati autogrill, non si chiamano autogrill, ma insomma ristoranti e diciamo simili autogrill. Prego. Sì, ristorazione, ecco, non mi veniva la parola, prego. C'è questa ipotesi che appunto Autogrill stia cercando un socio. È stato lo stesso Gilberto Benetton ad aprire a questa strada. Si tratta di una notizia positiva, anche perché consentirebbe ad Autogrill di espandere questo suo settore di attività. Ci sono già anche una lista di possibili candidati e sono tutti operatori del settore, come citava oggi Sole 24 Ore, si parla della francese Lagardère o del gruppo svizzero Dufry o anche di Nuance, insomma una notizia positiva che è stata letta positivamente dal mercato. Ancora, adesso arriviamo ai migliori e peggiori. Diasorin ha recuperato non poco, Sì, in realtà poi sul finale ha corretto, sì. Sul finale ha corretto, dopo il meno 10% di ieri, comunque ha provato, diciamo, a rimbalzare per poi chiudere a più 0,7%. Questo per quello che riguarda Diasorin. E ancora, vi do i migliori e peggiori adesso, però BS Spa più 10,50, Gas Plus più 8,64% e invece tra i peggiori GDF Suez meno 6,22, AGEA Gas meno 7,50, Richard Ginori meno 4,80 e Banco di Desio meno 5,30%. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Allora, c'è un messaggio che mi fa particolarmente sorridere, guardate che leggiamo anche per rispondere a chi critica. Lei è proprio un provincialotto, le manca un po' di esperienza di lavoro all'estero, caro Barisoni. Allora, sono d'accordo e in disaccordo al tempo stesso, nel senso che all'estero ci ho lavorato, per fortuna o purtroppo, non lo so, per molti anni. Se per provincialotto invece intende dire che noi ci occupiamo molto di temi italiani, del fisco, del reddito, del potere d'acquisto, delle imprese italiane, non andiamo a spaziare sui grandi temi macroeconomici, nel modello Le Monde Diplomatique, ha assolutamente ragione e sono contento di essere provincialotto, anche perché io, sa com'è, devo parlare con gli italiani, non con il mondo dell'accademia. Invece, però, per cercare di essere un po' meno provinciali, dopo il traffico ci occupiamo dei marchi al mondo che hanno maggiore forza, non perché sono più conosciuti, è un po' diverso. I marchi che nel mondo hanno il maggior valore economico si possono anche prezzare, dare dei prezzi ai marchi. Lo facciamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, parliamo dei marchi al mondo che hanno il maggior valore economico. La classifica, come ogni anno, viene stilata da Interbrand, Best Global Brands è il nome, e la Coca-Cola si conferma per il 12° anno consecutivo il marchio con maggior valore economico. Ripeto, non è la classifica dei marchi più conosciuti, lì è tutta un'altra storia, però quelli che hanno intrinsecamente maggior valore economico, c'è un modo per calcolare, adesso non ve lo racconto. Segue dopo Coca-Cola IBM, poi Microsoft e Google. La novità di quest'anno è la continua corsa, diciamo, dei brand tecnologici. Pensate che tra i primi 10, 7 appartengono al mondo della tecnologia, sono IBM, Microsoft, Google, General Electric, Intel, Apple e Hewlett Packard. E ancora invece scende Nokia, che è scesa dall'ottavo al 14° posto, però Apple entra nella classifica dei primi 10 e Disney è uno dei pochi brand nei primi 10, proprio marchi non a carattere tecnologico. Gli italiani come sono messi? Male, visto che siamo il 7° paese al mondo, ma nei primi 100 marchi non ci siamo, ossia abbiamo Gucci al 44° posto, era al 39°. Era il 44°, sale al 39°, ma Gucci è francese. Armani è salita al 93° posto e la Ferrari è scesa di 8 posizioni al 99° posto. Non è però un mistero, perché noi purtroppo abbiamo poche ma grandi imprese e quindi pochi marchi forti su base globale. Ne abbiamo parlato con il dottor Manfredi Ricca, che è il direttore generale di Interbrand Italia. Gli abbiamo chiesto, insomma, come mai questa carica, questa corsa continua di tutti i marchi legati alla tecnologia. Sì, decisamente sì, perché al di là delle posizioni assolute è interessante vedere lo scarto rispetto agli anni scorsi, dove vediamo una frangia di brand che sale, che diventa quel manipolo di brand che conquistano posizione, conquistano valore economico, come Apple, Amazon, Google, come giustamente citato prima, e la stessa Samsung, e allo stesso tempo è sempre nella tecnologia che si perdono posizioni, si perde valore, con brand come Nokia, ad esempio, Sony, Yahoo, Nintendo, che sono scesi molto. Sono i principali brand ad essere scesi rispetto all'anno scorso. Quello che vediamo è come se ci fosse una sorta di passaggio di consegne, che evidentemente non necessariamente è definitivo, ma sicuramente temporaneo, fra vecchio e nuovo. Quindi brand che hanno cambiato e che stanno cambiando in questi mesi il modo in cui lavoriamo, il modo in cui viviamo e acquistiamo, e pensiamo appunto alla stessa Apple, ad Amazon e a Google, e brand che invece hanno perso qualcosa in termini di leadership. Nokia, ad esempio, soprattutto per quanto riguarda il segmento più profittevole degli smartphone, è il brand che in assoluto ha perso il maggiore percentuale di valore. Sony, che tutti ricordiamo essere stata l'antonomasia dell'elettronica di consumo per decenni, che non ha più una leadership in molti settori chiave. Ecco, lei li chiama brand, io li chiamo marchi per far capire a tutti, anche se c'è una certa differenza tra brand e marchio. Però quello che vorrei ricordare anche agli ascoltatori è che qui non stiamo parlando di percezione, cioè non è un sondaggio in cui si chiede quali sono i marchi che conosci di più, oppure conosci il marchio Ferrari o il brand Yahoo. Voi la classifica la stilate sulla base di alcune caratteristiche in cui quella prevalente è il giro d'affari che crea il brand. Quello che noi consideriamo in questa classifica è il valore economico creato solo ed esclusivamente dal brand. Per raggiungere questo indicatore consideriamo tre aspetti che sono, come lei ricordava, il giro d'affari e soprattutto la profittabilità realizzata da queste aziende. Cioè gli utili, gli utili. No. Gli utili e il valore economico aggiunto, sì. Quindi gli utili oltre il capitale, il costo del capitale investito. In secondo luogo il ruolo che specificamente il brand ha nella generazione di questo valore economico aggiunto, e in terzo luogo il profilo di rischio, ovvero sia la probabilità che il brand continui in prospettiva a generare questo valore economico. Questo ci permette ad arrivare a una nozione di brand value che è del tutto coerente. Il valore del marchio, diciamo. Che è del tutto coerente con quelli che sono i principi di valutazione d'azienda. Come rammentava, la notorietà è uno degli aspetti che andiamo a considerare, ma non è evidentemente l'unico. Mi dica una cosa, l'assenza degli italiani deriva, secondo lei, dal fatto che noi abbiamo imprese piccole come fatturato, quindi in questa classifica veniamo penalizzati, non, magari abbiamo un marchio molto conosciuto, ma il fatturato è basso, quindi il valore del marchio è più basso rispetto ad altri, o deriva dal fatto che noi siamo presenti in settori troppo maturi, cioè alimentare, moda, cioè settori in cui la classifica non si muove tanto? Abbiamo visto che tutti i giochi si fanno dentro l'information technology, cioè sono più le dimensioni delle nostre imprese o i settori delle nostre imprese a penalizzare la classifica? Allora, sicuramente esiste un aspetto di dimensioni strutturali, quindi in Italia tendenzialmente abbiamo un tessuto economico che è fatto di realtà che, viste da un punto di vista globale, sono relativamente piccole e sono poco inclini ad allearsi fra di loro e a fondersi fra di loro. I settori in cui siamo sono ovviamente dei settori che tendenzialmente non permettono in questo momento di tracciare delle grosse differenze. Con la tecnologia si rivoluziona un mercato, si inventa una categoria, Apple è un esempio in tal senso, mentre invece nel settore della moda, nel settore come quello alimentare, questo è molto più difficile fare una rivoluzione e fare un balzo in avanti che è molto consistente. Il terzo aspetto però che non deve essere sottovalutato è che questa classifica riconosce anche un'altra cosa: i brand nascono e vivono, e questo è vero per qualsiasi settore, non solo quello tecnologico, di innovazione, di ricerca e di investimenti. E questo è qualcosa su cui in questo momento storico in Italia non possiamo non interrogarci. Questo è un paese che realmente a livello di sistema sta investendo in formazione e sta creando quello che sarà la vera innovazione, il vero avanzamento di domani? No. Non lo è, e purtroppo questa classifica racconta anche questo, vede dei brand che attraverso l'innovazione, attraverso costanti e continui e cospicui investimenti in innovazione stanno cambiando il modo in cui viviamo. In Italia questo purtroppo non si vede, purtroppo questa classifica deve essere anche vista in termini macroeconomici perché racconta qualcosa del sistema economico in cui viviamo. Questa è l'intervista realizzata qualche giorno fa, come si capiva anche dal raffreddore che avevo, con il direttore generale di Interbrand Italia, Manfredi Ricca. Volete sapere altri marchi? Ripeto, attenzione, è il valore economico, non la conoscenza di questi marchi o brands, come dicono in inglese. McDonald's, per esempio, è chiaro che ha un grosso valore economico, è infatti alla sesta posizione. La Disney, diciamo, la nona posizione. Gli italiani, Luxottica non c'è, Luxottica non c'è, Ray-Ban obiettivamente non l'ho guardato, ma la nostra Luxottica non c'è tra i siti, diciamo, tra i marchi, scusatemi, non legati alla tecnologia. Cito Nescafé, che è al 30° posto, Budweiser al 29° posto. Gillette al 16° posto. E poi poco altro, nel senso che Kellogg's al 34esimo, poco altro veramente. Bisogna scendere fino al 49esimo posto per trovare un altro alimentare come Heinz, e poi 52esimo Danone o 51esimo Colgate, che non è che sia proprio un alimentare, a meno che uno il dentifricio non lo mangi. Marchi legati al settore auto, volete sapere? Vedo che piace la classifica. Allora, il primo marchio del settore auto, brand con maggior valore aggiunto, è BMW al 15° posto, poi bisogna scendere fino al 59° posto, anzi 50° posto c'è la Ford, e poi 49° la Volkswagen e 59° la Adidas. L'ultimo dei primi 100, Harley Davidson, che è solo un posto sotto la Ferrari. Sopra la Ferrari c'è HTC di Taiwan, chiedo scusa per ignoranza, deve essere un grossissimo, è esattamente quello che fa i telefonini, e poi anche John Deere, deve essere un marchio, scusatemi non riesco a leggere, deve essere un marchio americano. Usciamo da questa impasse, andiamo al GR, poi Berlusconi sul disegno di legge sviluppo, Olli Rehn sul salvataggio della Grecia e il rischio di abbassamento del voto sul debito francese. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti, seconda parte di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa seconda parte, chiusa la parentesi e la pagina di borsa e la classifica dei marchi a maggior valore al mondo, adesso ci occupiamo prima di Italia, poi di Francia e anche di Grecia, nel senso che il tema di nuovo torna a essere quello dei debiti sovrani, delle riforme necessarie. Nulla di drammatico rispetto alle ultime settimane, agli ultimi mesi, ma insomma attenzione perché sono tornati a crescere tutti gli spread e in particolar modo quello italiano, 380 punti, la differenza tra quanto deve chiedere la Germania per ottenere un finanziamento sul suo debito e quanto deve chiedere l'Italia. Vedo che molti mi stanno contestando di non conoscere John Deere, chiedo scusa per l'ignoranza, marchio di trattori, mietitrebbie e attrezzature agricole americane. Scusate ancora, non lo conoscevo, ho capito, ci sono 30 messaggi su questo, ho capito, non conoscevo il marchio che è il 98° posto al mondo. E allora la pagina di politica economica, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo, vedi, non si smette mai di imparare, John Deere, leader mondiale nella produzione di macchine agricole. Vabbè, veniamo ai temi di casa nostra. Il Presidente del Consiglio oggi, ve l'hanno già anticipato nel TGR, è intervenuto con delle dichiarazioni che stanno già suscitando numerose reazioni, ma sul neo governatore della Banca d'Italia da un lato e dall'altro sul disegno di legge sviluppo, quello che dovrebbe contenere la parte non di tagli, quella c'è già nella finanziaria, tagli e tasse, ma di sviluppo, di elementi per far crescere l'economia. Allora, sì, c'è chi mi contesta che non ho parlato dell'assemblea degli azionisti della Juventus. No, non ne ho parlato, adesso non ho tempo e non è in scaletta. Andiamo avanti invece, cosa ha detto Berlusconi? Il disegno di legge non deve avere una fretta eccessiva, non occorre mettere troppa fretta perché deve essere convincente. Noi aspettiamo. L'ultima, se non ricordo male, l'ultima revisione della data era il 20 di ottobre, ma a questo punto mi sa che slitterà. Questa sera però alle 19 un incontro di maggioranza per discutere proprio del disegno di legge sviluppo. Non ci sono soldi, ha specificato Berlusconi, ci inventeremo qualcosa. Io sono personalmente contrario, ha detto Berlusconi, alla patrimoniale. Ci stiamo lavorando, anche stasera una riunione che comincia alle 19 finirà nella notte, non è così facile. Con alcuni ministri, sì. Alcuni ministri, alcuni tecnici. Io conto sul varo del decreto appena il decreto è convincente. Cioè quando ci saranno nel decreto dei provvedimenti che possono davvero stimolare lo sviluppo e la crescita, lo presenteremo. però non ho una particolare fretta, perché una settimana non cambia nulla. Stiamo riflettendo, soldi non ce ne sono, quindi stiamo cercando di inventarci cose. Io sono personalmente contrario alla patrimoniale, non mi sento in questo momento di esprimere le opinioni degli altri componenti della maggioranza. Allora, due risposte di SMS. Abbiamo detto più volte che la crescita economica non si fa per decreto e nessun governo riesce a far crescere un paese che ha altri vincoli. Non fai crescere per legge il PIL. Quello che puoi fare è creare il terreno dove poi si può sviluppare la crescita economica, e quindi togliere tutto un insieme di lacci, lacciuoli, oneri burocratici che costano tempo e miliardi alle imprese, e magari alleggerire la tassazione sul lavoro e sull'impresa, quindi redditi da lavoro e da impresa, e aumentare magari quella, perché non puoi abbassare la tassazione e basta, sui patrimoni, sui guadagni, sulle rendite, chiamatela come volete. Ci sono, vedo molti commenti su Berlusconi, però ci sono misure in realtà a costo zero. Allora, la frase non è delle più felici, diciamola tutta, quella del Presidente del Consiglio che dice, insomma, non ci sono soldi, ci inventeremo qualcosa, non dà l'idea di uno che stia proprio lavorando su una tabella di marcia, però ci sono misure possibili anche a costo zero. Pensate alla liberalizzazione, alla sburocratizzazione, ai tempi che si mette in Italia 2 anni e mezzo per ottenere tutte le concessioni per aprire un capannone contro i 3 mesi e mezzo della Spagna. Ecco, quella cosa lì si può fare a costo zero. E poi la Banca d'Italia, non c'è ancora una soluzione, tempi brevi promette Berlusconi, anche perché ricordo che il primo di novembre Mario Draghi va in Germania, va a Francoforte e diventa il numero uno della Banca Centrale Europea. Tempi brevi, ma ci sono ancora problemi. C'è anche Bini Smaghi, uno dei membri del Consiglio della Banca Centrale Europea, membro italiano, tra i possibili candidati. Bini Smaghi è una delle personalità che sono nel numero di quelle che potrebbero diventare governatore. Sì. E poi la dichiarazione di Umberto Bossi, che è tornato su un tema obiettivamente che non si riesce quasi a commentare, perché insomma dice: sulla Banca d'Italia tra pochi giorni bisognerà votare, dice il leader della Lega Umberto Bossi. Deciderà Berlusconi? Gli chiedono. Sì, assieme a tutti. Sono ancora a favore di Grilli. Dopo tanti romani mettiamo un milanese. Cioè, voglio dire, stiamo parlando del governatore della Banca d'Italia. Il criterio non può essere se è milanese, romano, se ha gli occhi azzurri, capelli biondi, se è alto o basso, se non vogliamo continuare a farci ridere da mezza Europa attorno. Chiudo la mia brevissima parentesi, ci spostiamo in Francia. In Francia, dove Sarkozy è preoccupato, ha detto: abbiamo 10 giorni di tempo, quasi apocalittico il presidente francese. Allora c'è Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Marco, buonasera. Buonasera a voi. Allora, dopo il traffico, ti chiedo ancora un minuto di pazienza, vorrei capire come mai, al di là del fatto che Moody's abbia messo sotto osservazione il debito francese, che comunque è una AAA, come mai c'è un Sarkozy così allarmato? Il nostro destino, ha detto, si gioca nei prossimi 10 giorni, mamma mia. Dopo il traffico la risposta, 349-238-6666 per i vostri SMS. Dopo rispondo anche ad alcuni messaggi. I soldi ci sono, basta prenderli dall'evasione. Ok, bisogna prenderli però dall'evasione. Comunque, Marco Mussanè, com'è che Sarkozy è così apocalittico? 10 giorni di tempo per decidere il destino della Francia. Là. Beh, per due ragioni. La prima di politica interna. Siamo ormai entrati in campagna elettorale dopo la vittoria di Hollande alle primarie socialiste, quindi il fatto che esista adesso un avversario fisicamente concreto, reale, e Sarkozy che ha costruito

le banche francesi possano non riuscire da sole a ricapitalizzarsi e quindi richiedere un intervento dello Stato. È chiaro che un intervento dello Stato in una situazione di questo genere, con un deficit all'87% del PIL, è evidente che andrebbe a impattare pesantemente sul processo di risanamento dei conti pubblici francesi. Ancora, giustamente fate notare, chiedete quanto fosse lo spread francese prima, diciamo, a maggio, diciamo maggio-giugno, con la Germania. Era intorno ai 30, no? 30 punti. Era intorno a 40 punti. Cioè pochissimo. Praticamente la Germania, la Francia era considerata affidabile quasi quanto la Germania. Adesso siamo a 100 punti, che è un punto percentuale di rendimento in più. Siamo a più del doppio, fermo restando che l'Italia è a 3,80, la Spagna è a 3,50, 3,40, poi arriviamo ai casi portoghesi e greci, 800, 1000 punti. Vabbè. Sul fronte invece dell'impegno nel salvataggio, perché oggi abbiamo visto anche altre dichiarazioni dopo Angela Merkel di ieri, Olli Rehn, commissario europeo agli affari economici e monetari, lo facciamo risentire perché mi sembra la notizia più rilevante oggi sul fronte europeo. I'm just back from a G20 meeting in Paris. There is a concern about the soft patch in the global economy. Sono appena tornato dall'incontro del G20 a Parigi e c'è preoccupazione per il passo lento dell'economia globale e per il rischio di un nuovo rallentamento economico. Soprattutto c'è preoccupazione per il perdurare della crisi finanziaria. Al centro delle discussioni del G20 c'è stata l'area euro, nella quale ci sono elementi interconnessi tra loro che devono essere affrontati. Innanzitutto dobbiamo creare delle protezioni più solide per contenere il contagio. Occorre poi aumentare la capacità di prestito del Fondo Salva Stati e FSF e aumentare la sua potenza di fuoco. Su questo aspetto sono fiducioso che verrà trovato un accordo. Riguardo la Grecia, occorre una soluzione sostenibile. Dopo molto lavoro è stato trovato un accordo con la Troica e questo è un segnale positivo per l'erogazione della prossima tranche di aiuti. È anche chiaro che occorre rivedere il secondo piano Salva Grecia, in particolare per ciò che riguarda il grado di partecipazione dei privati. Occorre costruire un nuovo piano per la Grecia che sia solido per evitare il dramma continuo che stiamo vivendo. We need to build a solid second program for Greece, avoiding the continuous current drama. E poco fa Angela Merkel ha detto: siamo pronti a tutto per evitare il contagio della crisi. Andiamo avanti millimetro dopo millimetro, e questo weekend, questo fine settimana, discuteremo nel G20 della ricapitalizzazione delle banche europee. Allora, Marco Mussanè, nel salutarci, cosa potrebbe essere o diventare la posizione francese, da sempre dialettica con la Germania, al G20, alla luce delle difficoltà che ha la stessa Francia? Cioè, più comprensiva dei nostri italiani problemi spagnoli o no? No, non credo. Credo che la Francia cercherà il più possibile di consolidare l'asse con la Germania e sicuramente nel momento in cui si dovrà scegliere sarà più vicina alle posizioni tedesche che alle posizioni dei paesi del sud Europa, senza alcun dubbio. Grazie al corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore, Marco Mussanè. Devo darci invece una notizia che è appena stata battuta, e non è una bella notizia. In caso veleno, dunque, Standard & Poor's ha abbassato il voto a 24 banche italiane, mentre lo ha confermato per altre 19. Purtroppo ho solo il flash d'agenzia, però l'abbassamento del voto come conseguenza dei rischi sull'economia italiana e anche dei rischi sul debito italiano. Le banche italiane, giustamente secondo me, comprano molto debito italiano, comprano molto i BOT e BTP italiani. Queste due valutazioni, dicevo, hanno portato all'abbassamento del voto su 24 banche, tra cui Monte dei Paschi, UbiBanca e Banco Popolare. Confermato invece il voto di 19 banche, tra cui Intesa San Paolo e Unicredit. Moltissimi altri messaggi a cui non riesco a rispondere. Volete sapere quanto ammonta la stima sulla lotta all'evasione? Dunque, sono circa 220 miliardi di imponibile evaso, quindi circa 100 miliardi che non entrano nelle casse dello Stato ogni anno, ossia 6-7 manovre finanziarie ogni anno, o due volte gli interessi che paghiamo sul debito, basterebbe portarlo a un livello francese, intorno al 15% del PIL, non al 24% come è da noi, e già risparmieremmo 60-70 miliardi all'anno. Ne parliamo comunque domani, non di evasione ma comunque di economia e di finanza. Per ora è tutto, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.